English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa puntata è stata realizzata grazie a Enrico Pagliarini, che ci ha regalato un'intervista che ha realizzato per 2024 ed è andata in onda nella puntata del 19 maggio. Riguarda un tema importante e affascinante, quello dei big data. Per avere tutte le spiegazioni più tecniche vi rimando al podcast di 2024, appunto del 19 maggio. Ma ora andiamo a scoprire questo personaggio americano che il nostro Enrico ha incontrato appunto pochi giorni fa. Si chiama Steven Brobst ed è il CTO di Teradata ed è anche, per farvi un esempio, consulente di Barack Obama. Intanto sentiamo come ha raccontato questo tema dei big data a 2024. Ecco qui. I would say we are at the very beginning, but it's also very popular. There's something that Gartner refers to as the hype cycle. Whenever there's a new technology, everybody sees this new interesting shiny object and they all run to the shiny object. And all the vendors selling the technology say it's going to solve all of your problems. And there's these over expectations that get set. And then reality sets in and says, oh, those vendors were lying to me again. It's not solving all of my problems. And then you have the trough of disillusionment where they say, ah, I don't believe anything anymore. And then eventually reality sets in and says, okay, it's good for solving some things, but not maybe everything. And then it becomes a mainstream technology, assuming that it survives the trough of disillusionment. Eccolo qua Steven Brobst col suo straordinario accento americano, secondo me anche piuttosto, insomma, facilmente comprensibile. Io credo che gli ascoltatori abbiano capito che ci troviamo di fronte a una nuova tecnologia che pone gli interrogativi, i problemi che pone ogni volta una nuova tecnologia. Lui lo spiega, insomma, in maniera molto serena. Sì, c'è Gartner, la famosa società di analisi, che proprio ha creato un termine per questo. Dice, quando si introduce una novità che anche un non esperto intuisce come una cosa di rottura, c'è questo hype cycle, cioè c'è il ciclo e si raggiunge questo hype, che è un'eccitazione. Hype vuol dire essere eccitati per qualche cosa, le novità dirompenti ci eccitano, perché there is a new technology. E naturalmente sappiamo che poi la California, l'America, dove poi ha sede anche Gartner, sono, ne hanno visti tanti di questi hype cycles, quindi li conoscono e li hanno appunto addirittura, li hanno addirittura codificati. Ci danno sempre entusiasmo questi hype cycle, ma danno anche entusiasmo a chi deve vendere le nuove tecnologie, ai noi. Anche perché, insomma, tutti abbiamo qualche problemino con la tecnologia, forse anche Enrico Pagliarini e i suoi super esperti. Quindi quando qualcuno ci dice c'è questa nuova cosa, wow, siamo tutti tentati di pensare it will solve all our problems, e se qualcuno ce lo racconta ci crediamo. Questo shiny object che ci presentano, che magari non è un oggetto fisico ma appunto un programma, e over expectation get set, cioè vengono proprio delle, uno si fa delle aspettative enormi. C'è questo rapporto fortissimo e molto emotivo, paradossalmente, con il computer. E anche a livello più globale, dopo questo grande entusiasmo, tutti pensiamo questa nuova tecnologia ci risolverà i problemi, non lo fa, e allora cosa succede? E allora anche sempre qui, sempre secondo questo hype cycle, che poi ha una sua fase down, interviene quella che viene definita la trough of disillusionment. Trough scritto come enough con gh finale, quindi trough, che è come un tonfo di disillusione. E reality sets in poi, però, perché ci rendiamo conto noi stessi che eravamo noi che chiedevamo troppo, eravamo noi che avevamo proiettato i nostri sogni di risoluzione tecnologica, e quindi diventa una mainstream technology, cioè qualcosa che è diffusa a vantaggi e svantaggi, something that survives the trough of disillusionment. Non la ameremo alla follia, ma non la odieremo neanche alla follia. Ma continuiamo a sentire Steven Brobst a proposito appunto di questi big data. I think we are at the beginning, we're at probably near the top of the hype cycle, where everybody's talking about it, everybody's excited about it, but people are still trying to figure out through all the excitement what they're really going to do with it. How do I really get the business value? Most mainstream companies outside the dot-com, so the dot-com companies, they're really into it. For them, it's more mature. But the average bank, the average retailer, the average telco, they're in the very beginnings of big data exploitation. They're doing a lot of what we'd refer to as tire kicking. Sort of looking around, looking to see what are the value and so on. And eventually they're going to start to identify what are the cases where it's adding value and what are the cases where it's just a bunch of hype. And right now is the beginnings of the mainstream adoption, but we definitely don't have mainstream adoption yet. I think that's going to be happening over the next 18-24 months. Ecco a che punto siamo in questo ciclo di cui parlava prima Stephen Brobst. Siamo quasi all'apice, e però i tempi sono velocissimi. Arriveremo alla fase mainstream in maniera molto veloce. Sì, perché lui dice chiaro che questi sono investimenti, cioè i vendors presentano la tecnologia, gli esperti come Brobst ne parlano, poi le aziende la devono comprare. Quindi they are trying to figure out. To figure out è un bellissimo phrasal verb che vuol dire cercare di capire proprio. Try to figure vuol dire immaginatelo, to figure out vuol dire capiscilo, quindi stanno cercando di capire how do I get the business value, perché ok, lo devo comprare, ci devo investire, devo fare training alle mie persone, e però dal punto di vista economico del mio business. E quindi most mainstream companies, mainstream, questa parola strausata che vuol dire anche le grandi aziende, quindi your average bank, your average telco, telecommunication company, your average retailer, il tuo negozio, la catena di negozi, they try to figure out. Stanno cercando allora appunto di capire come gestire, come amministrare, come analizzare questi grandi dati, questo enorme ammasso di dati. Ma a questo punto siamo nella grande fase nell'acme dello hype. E ora cosa succederà? Cosa succederà in quanto tempo, secondo lui? Ma secondo lui, tra l'altro, usa questa espressione bellissima, they are doing tire kicking, che letteralmente vuol dire prendere a calci le gomme, il momento in cui uno è lì che deve capire cosa fare. Allora prende a calci le gomme e aspetta che succeda qualcosa. Però questo qualcosa, secondo lui, it's gonna be happening over the next 18 to 24 months. Cioè le aziende, non solo le .com, che secondo lui hanno già capito, avranno bisogno di questi strumenti per analizzare quello che viene detto big data, che poi vuol dire dati su dati su dati su dati su dati di tanti tipi diversi che vanno interpretati. L'ultimo estratto dalla conversazione di Enrico Pagliarini con Stephen Brobst, eccolo. I think at the most basic level it's organizations understanding that competing on analytics is a matter of survival. That you need to make data-driven decisions, not just gut-of-your-stomach types of decisions. And in order to make those decisions, you need the data. And in the past, people focused on the transaction detail, but now people are understanding I need data below that level of detail to the interactions. When you get to the interactions, that becomes big data. It's clickstream data, it's social media data, it's sensor data, it's all those different kinds of interactions that you have. So big data spans all of those. Già mi viene un po' di ansia a pensare a tutta questa massa, a questa grandissima quantità di dati di tanti tipi diversi e che pongono una serie di problemi enormi. Non a caso, appunto, insomma, gli esperti stanno studiando questo aspetto. Però il punto di partenza è le aziende devono capire they are competing on analytics. Cioè è un fattore di competizione l'analisi dei dati, analytics. Ma è anche un matter of survival, cioè tu puoi essere, possiamo avere dei grandi analisti tutti e due, ma non è che se io non ce l'ho, vabbè, no, io muoio, io soccombo. It's a matter of survival, because you have to make data-driven decisions and not stomach type of decisions. E questo è verissimo, devo dire, me lo stanno confermando tutti, persino nel mondo del lusso, dove uno pensa che bisogna intuire le cose. No, anche lì bisogna analizzare i dati. Fino a poco tempo fa people focused on transactions data, cioè cosa abbiamo venduto, chi ha comprato, quando, perché, a che ora, quanti pezzi. No, non basta più. We need the data below that. E below, in questo caso, sta diventando sempre di più social data, clickstream data, perché c'è tutta la parte internet. Ormai tutti noi come clienti facciamo le nostre scelte di acquisto anche, o magari andiamo a vedere online. Ecco, quei data lì, social media, le interactions, i mobile data, tutto insieme. Ma come analizzarli? Beh, Mr. Probst c'ha la sua ricetta, perché Big Data, io sono sicura che troveranno un nome un pochino più così, più immediato, spans all of those. To span vuol dire attraversare, coprire, andare da una parte all'altra, quindi copre, comprende tutti questi diversi tipi di dati. Per chi fosse interessato all'aspetto tecnologico, vi ricordo la puntata di 2024, quella con Stephen Probst, è andata in onda il 19 maggio, quindi potete recuperare il podcast sul nostro sito radio24.it. Grazie ancora a Enrico Pagliarini che ci ha regalato questa intervista, grazie a Valeria Bernardi in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.